Stanno per 19:25. Sono parecchi di bisogni. Anzi, forse Fabio, vabbè, Fabio non c'ha smitte, quindi non te ne chiedo per il momento. Però arrivi benissimo. Giacciono la notte. Sì, se metto dietro quel tasto mi ruba la radio, lo lascio così, dai. Lascialo così che va benissimo. Stai passando a Fabio, figurati. Fabio, ti ha passato Tonino, eh? Posso immaginarmelo. Tonino se ne ascolta. Da Santiago 4, studio Twitter, a Santiago quasi notte. Ma da dove sei tu che sei basso? No, sono un pezzo sulla finestra. Ah, vabbè, io sono in campagna, Questo ci ha capito quelle zone là. Non è male, ma cavolo, arrivi quello altro qua, arrivi, ma guardate, che terra sul corpo, che fai, a te volte, sapere, figura. Sono anche in zona alta praticamente, nella zona in cui c'è campagna. Un bel pane, c'è niente, è una cicottata, il buono certo, andiamo avanti, pompuzzi. Ehi, ha voglia che fa cazzo se funziona con la cicca. Ce l'ho anch'io, però non aggiungare togliono fuori adesso, che mettermelo sotto all'apparecchio, e se no con la pioggia incomincia a far ballare la centralina qua, che l'altro giorno me l'ha fatto, siccome c'ho i capelli della cosa, dell'antenna TV, che sono dietro, sotto la baracchina in pratica, quindi se attacco il gigetto fa rientra. Bisogna che ci metto la scrematura, ho fatto le connessioni dell'appartamento mio, quindi per scalmarlo un po'. E io non riesco a trovare un accordatore d'antenna, c'è un commutatore d'antenna. Guarda, l'ho visto poco fa su Ali Service, un commutatore d'antenna bello, 1000 watt tiene. Vai, anzi no, AliExpress, c'è lì, un commutatore d'antenna a 4, ma bello, grigio, costa una cazzata. Ma dove l'hai visto, non ho capito? Il sito AliExpress c'è scritto, e c'è questo commutatore d'antenna, c'è. Adesso provo ad andarci a vedere. Guarda, dove è in offerta? Ci sono anche baracchini addirittura belli, ci sono, figurati tu, l'ho visto poco fa, siccome ci sono le offerte, ci sono oggi, e stavo guardando e ho visto quel cazzo, come da Toledo hanno messo, strano, non l'ho mai visto, c'è un ingresso e quattro uscite, c'è una bella, 1000 watt di potenza resiste. Sì, ma AliExpress così è, spendi bene, vivi meglio. E dove devo andare adesso per trovare questo portatore? Elettronica e coso, ci sono antenne, ci sono baracchini, di certo non puoi guardare, cioè vai nell'abbigliamento, poi ci sono certe cose, se le vedi, guarda, piazzate la ragazza, ti trovi 20 a città mercato, per dire, se esci in quelle condizioni, tutta roba cinese, se esci in quelle condizioni, per carità, guarda, se vai a fare la spesa, non fai altro che tirarti l'aggeggio fuori, dici, dov'è il buco? In mezzo alla rete. Ma dimmi una cosa, devo installare quest'app? Sì, ha installati quell'app, che ci sono un bel di cosa. Ok. Brix, un attimo. Ti volevo dire, Fabio, tu che non ce l'hai, installati il CP Talk nello smartphone, così puoi parlare tranquillamente dal telefono con... perché c'è gente lì, io l'avevo provato, mi sono dedicato di diretta la vita. Così se non c'è il baracchino, almeno usi il telefono, capito, per parlare. È una cazzata installarlo. Tu installi e parli con tutto, fino a cosa arrivi? 30 km di distanza fa. proprio baracchino. Ce n'è uno vicino a casa, ma non so dove lo sia. Ah, quindi sono tre, anzi, come sono tre? Aspetta che passo in tolgo questo qui locale e vado in da CH gruppo. Passiamo così è più bellino anche ascoltare, ecco. Vediamo se c'è qualche finocchione per sbaglio. Vediamo, ti piace e te lo metti, serve a me, è bellino. È bella, bella l'applicazione, sempre e sempre. Avanti Tony. Ah, stai, sto cercando. Ah, sì, sì, va bene, va bene. Poi quando se tu vuoi scaricare mezzo della civiltà, che te lo scarichi in quel telefonino, almeno parli come se fossi il 27, di là. E perché devi commutare? Perché io commuto forse, boh. Sì, è un telefonino stesso. Male, Brecco, per favore. Vediamo se mi risponde. Ora Brecco, ora Brecco. Cazzo, canale, ci sono dei la stazione Alessio che sta parlando dalla Sardegna Italia, per favore, come mi intende? Ok, te ringrazio al 100%. Ok, adelante per te. Lascia perdere che questo è il periodo delle bagasse. al telefonino, tutti i singoli sono. Grazie. Vai a chiamarne una, vabbè, le rispondi, ti chiama, dice vuole parlare in privato, eccetera, eccetera, cazzo. Ti chiede l'amicizia, e che cacciapi, niente che ti chiede i soldi, hai capito? Per campalla, chi 200, chi 500, chi c'ha il marito che in quelle condizioni, c'è il figlio che c'ha il tumore, c'è quella che c'ha il coso parallelo, hai capito? E quindi ora voi ce ne devi eliminare, tutto pieno, perché c'è il coronavirus, capito? Quando sparisce questa storia qui, vedrai che spariscono tutti questi siti strani, tutti i siti di incontri. E ti trova magari mezzo bevuto, cosa del genere, ti dice spogliati amore mio, ti voglio vedere con l'aggeggio, tu glielo fai vedere, dopo 5 minuti piglia e ti manda il filmato a tutti i parenti, ma per carità, guarda. Capita, più di uno interpretato, come se tu vai in discoteca per dire ti metti a ballare con una ragazza, tu ah che buona, che buona, che buona, sei mezzo bevuto, eccetera, eccetera, prendi, cazzo, taccia, ti affianchi, tocchi qui, tocchi lì, vai dove c'è il freddo da stiro e ti scotta, capito? Ti passa tutto le braghiere, fai minimo 3-4 mesi senza andare, manco in discoteca. Si alza sì perché c'è misurato del campo. E tu provi a attaccarci il bifuccio contro di tu, no? In quell'antenna lì dentro a casa, prendi una lampadina, una lampada a neon, te la metti di fronte e si accende da sola per induzione. Io qua, a casa, tu immaginati, metto il tester, il puntale del tester fuori dalla finestra senza agganciarli in nessun posto, mi tenendo in mano. Dal basso, dove c'è la plastica, no, dai puntali. Beh, mi segna 24, 20, 25 microvolts, capito? Figurati tu. A volte sale anche a un volt e mezzo, un volt e 10, dipende da come usa il ripetitore. Antone, dimmi. Non lo trovo. AliExpress si chiama. C'è uno stemma rosso, c'è, con un mezzo cerchio in pratica, verso l'alto. AliExpress. Antone, io l'ho già scaricato con l'Express, non trovo il commutatore. Io l'ho visto stasera, quest'anno non l'ho mai visto prima. C'è, perché c'è? C'è il commutatore dell'antenna. Aspetta, vediamo se lo prendo io. Fate le mutandine, computer, cose del genere, gli apparecchi vari, eccetera, eccetera, trasmettitori FM, ci sono antenne, mulandas, questa cosa a cazzo, trasporto l'apere per usare le cuffie, un amplificatore, un trasmettitore FM, un portatile, un un microfono giallo per il Baofeng, poi cosa cazzo c'è qua? Un RS978 SBHF SDR Radio, 502 euro. Guaglio le mutande, c'è mutande, una ragazza con l'ase, sembra un coso, cazzo, verità. Antenna, vediamo se lo trovo io. C'è un altro Baofeng. Una che si fa il bagno, portatili, dove cazzo è che l'ho visto? Scusa, il computatore è... ma bello, veramente bello, ci sono antenne, ci sono tutti i tipi. Clicchi, chiavi, cosa cazzo è questo binocolo? Potente binocolo AX30, divisore notturna 7,25 euro, vivola di Duda, tipo verità. E poi ho visto che avevo comprato l'antenna 4. No, io sto scendendo, ero una trovata. Ah, sono Giuseppe, ragazzi. Non so tra più ora. È successo una persona che te l'ha raccontato. Ehi, buonasera, aspetta. Il telefono. Si chiama Giuseppe. Oh, bravo.